la storia del jazz, perché dovete sapere che il jazz, ma forse lo sapete già, ma lo hanno creato gli italiani in America, non l'hanno creato i neri hanno creato il blues, ma i primi dischi sono stati incisi da Nick LaRocca e dalla Original Dixieland Jazz Band, e Nick LaRocca era figlio di un trombettiere di Sala Paruta in provincia di Trapani, che aveva suonato nella fanfara dei bersaglieri del generale La Marmora durante la terza guerra di indipendenza. Ma queste cose molto spesso non le dice nessuno, ma ve le racconto io, che io insegno anche storia del jazz nelle università e l'ho insegnato per 10 anni alla Casa del Jazz. Questo brano che vi facciamo ascoltare, grazie, è stato inciso per la prima volta nel 1916 da Nick LaRocca e la Original Dixieland Jazz Band. Il titolo è Back Home Again in Indiana. Thank you. italiana della Duca d'Albania la cornetta. Grazie cari amici, ma Licio La Rocca non è stato l'unico italiano a incidere i primi dischi. C'è stata un'altra orchestra che si chiamava New Orleans Rhythm Kings, il cui clarinettista, anche lui, pensate, era figlio di un signore di Salaparuta in provincia di Trapani. Questa città, questo paese della provincia di Trapani che ha dato i natali a questi musicisti, chi lo sa come mai, ma forse saranno state le melanzane, può darsi, chissà. Vi faremo ascoltare adesso il primo blues bianco della storia del jazz, scritto appunto da Leon Roppolo, che si chiama The Tin Roof Blues. Orleans, questa meravigliosa città che è praticamente nel sud degli Stati Uniti, praticamente ha ricevuto gente proveniente da tutte le parti del mondo e casualmente il jazz è nato lì. E adesso vorrei suonarvi un brano che si chiama Bourbon Street Parade. Bourbon Street è la strada dei divertimenti del quartiere di New Orleans e che adesso vi facciamo ascoltare. The Bourbon Street Parade. Prego carissimo. Thank you. basava sulle case del quartiere delle Luci Rosse, affollatissime, devo dire, con i musicisti che intrattenevano i clienti al pianoforte o alla chitarra o al banjo. Se non che nel 1918 gli Stati Uniti entrano in guerra e New Orleans diventa un porto militare, per cui arrivavano le truppe che poi ripartivano per combattere in Europa. Ma erano più i soldati che rimanevano a New Orleans che quelli che partivano per combattere. E allora per decreto legge il quartiere di Storyville fu chiuso e la maggior parte delle ragazze e dei musicisti furono costretti a lasciare New Orleans verso New York, Chicago, Kansas City, St. Louis. E così il jazz iniziò il suo lungo cammino. Ebbene, adesso vi faccio ascoltare, cantato da Silvia Manco, questo Basin Street Blues, la strada dove c'erano le case più eleganti di New Orleans. The Basin Street Blues. Won't you come along with me to the Mississippi? Meet us, all friends to greet us. Come vi dicevo prima, il jazz si trasferisce da New Orleans a New York, a Chicago, e a Chicago alcuni musicisti che io ho frequentato e con i quali ho suonato, vi parlo degli anni 60-70, ma negli anni 20 hanno creato lo stile di Chicago. E fra questi Jimmy McPorter e Bud Freeman, ed ora il nostro Gianluca Galvani vi farà ascoltare I Found a New Baby. Thank you. Gianluca Galvani. Grazie. Gli amici, e a questo punto vorrei presentarvi la nostra meravigliosa pianista cantante Silvia Manco, che vi farà ascoltare un brano del suo repertorio. Cosa ci fai, Silvia? Un brano meraviglioso scritto da Oggy Carmichael, Polvere di stelle, Stardust, 1929, Silvia Manco. Dream in vain. appena arrivato da Londra e che si chiama Clive Anthony Rich. Where is Clive? Hello, Nanni. I have a message from the Queen. C'è un messaggio della regina. I learned it on the plane. L'hai imparato sull'aeroplano. Ma in italiano? Sì. I mean, yes. Prima di Caracalla e suoi famosi bagni ci fu la gloria che si chiama Anagni, dove adesso in noti di jazz si unisce ognuno. Che bello stare nella luce con Lino Patruno! Some of these days, you're gonna lose me a hundred. Some of these days, you'll be so young. You lose my hugging, you lose my kissing. You lose me, baby, when I'm so far away. Well, I've been so lonely for you only. You lose me a hundred, you had your way. Come on, you leave me. Some of these days, you're gonna miss me, honey. Some of these days, you're so lonely. You miss my hugging, gonna miss my kissing. You miss me, baby, I'm so far away. Well, I feel so lonely, I'll call you only. But then, now, honey, you had your way. Oh, you leave me, you know it's gonna be me. You know

unrestorable. No. Il primo attore cantante a girare il primo film sonoro della storia del musical nel 1927 e il suo film si chiamava The Jazz Singer, il cantante di jazz. Al Jolson un suo brano Avalon. Never long, and I say, no way. Yeah. It's such a dreamy night. This is too big to be a dream. I want everybody to dream together. Dream. Dream a little dream of me. And they all gotta sing. Baby! Can you join in with me and go dream a little dream of me? Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper love. Birds singing in sycamore trees. Everybody, dream a little dream of me. A singing kiss me. Just hold me tight and tell me while I'm alone, blue words can be. Dream a little dream of me. Stars are fading, but I'm laying around here. Just a craving. You know those night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. A dream. You can hear it in the wind. Oh, say nighty night, baby. Kiss me. Just hold tight. Tell me. While I'm alone, blue words could be dreaming. Oh, those stars fading, but I lay along with you. Just a craving your kiss. I'm longing to lay. Just say But in those dreams, whatever they be, dream a little dream of me, everybody. If you knew Susie like I knew Susie, ow, ow, ow. Oh, stop, stop, stop, stop. They've got to go, oh, oh, oh, oh. Allora, quando lui canta oh, oh, oh, dovete rispondere oh, oh, oh, oh. Così siamo tutti dentro il grande oh insieme, senza okay. Rompere. If you knew Susie like I knew Susie, ow, ow, ow, what a gal. It's not so classy like this fair lassie, ow, ow, ow. Down the Moses, what a chassis. We went riding, she did. When those saints go. marching in. When they say, oh, when they say, go marching in, oh, when they say, oh, when they say, no, go marching in. Queste canzoni parlano del fine del mondo. Sì, parlano del fine del mondo, ma se siamo tutti qui in questa atmosfera di amore e luce ad Anagni, Anagni, sono sicuro sarà un nuovo inizio cantando insieme. When the saint, when the saint, oh margini, oh margini, oh when the saint, oh margini, I wanna be in that number, I wanna be in that number. When the saints, I wanna do it soffiato, soffiato. Oh, when the saints, when the saints, go marching, go marching. Oh, when the saints, go marching. I wanna be in the number. Oh, when the saints, go marching. Silenzio, silenzio. When the saints, go marching. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, I wanna be. Piacere, poi lo sapete, sono un grande appassionato, mi avete fatto passare tutta la tensione che c'avevo prima dell'inizio del festival. Mi è venuto un calo di zucchero, pauroso. Vorrei invitare l'assessore Carlo Marino a salire un momento, perché noi abbiamo anche una tradizione dall'inizio del festival di dare ogni anno un modesto attestato alla carriera. Fino adesso l'hanno avuto Iacucci, Patrizia Scascitelli, Marcello Rosa, Dino Piana, e quest'anno con grande, grande piacere lo vogliamo dare al pioniere del jazz italiano. Un applauso, guardate, oggi è un evento storico, al maestro Rino Patruno. L'attestato. Ecco l'attestato, ve lo leggo. Ve lo leggo: al maestro Rino Patruno, pioniere del jazz italiano, affermato protagonista internazionale, custode del Dixieland, attraverso l'estro e l'assoluta bravura tecnica del suo amato banjo. E poi un'altra cosa che noi ci teniamo, perché Anagni è al centro delle coltivazioni dell'unico rosso d'OCG del Lazio, e cioè del Cesanese del Piglio, e siccome noi facciamo le cose in famiglia, allora il mio amico e il mio grande cugino, cui sono tanto affezionato, Antonello, che è titolare di una cantina prestigiosissima di Cesanese, vince ogni anno molti bicchieri, e quindi abbiamo il piacere di regalarle 3 bottiglie di Cesanese della cantina Coletti Conti. Questo è proprio un nostro particolare piacere. Oggi abbiamo fatto assaggiare poi al maestro e a tutta la band la cucina tradizionale anagnina, il famoso timballo blindato, che a voi pare che è piaciuto, insomma, ecco. Qua abbiamo un cornettista, avete visto, che roba su questo. Lo facciamo un applauso? Lo facciamo un applauso? Io sono veramente molto contento, anche un pochino.